puntualissimi, l'appuntamento era per le 8:10 che scoccano in questo momento e la fortuna di avere un ospite oltre che prestigioso che già abbiamo sentito, perché noi seguiamo questa rassegna giunta alla terza edizione che è il Festival Trasparenze di Teatro Carcere, con noi appunto Paolo Billi, che addirittura qualche minuto fa mi ha scritto: io sono pronto, ci siamo. Che bellezza avere un ospite così mattiniero. Buongiorno Paolo, bentornato. Buongiorno a te, grazie. Grazie a te. Dal 13 novembre al 23 dicembre il Festival Trasparenze di Teatro Carcere, come ho già detto e ripeto, è alla terza edizione. Istituti penitenziari di Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Forlì, Ravenna e Modena, veramente esteso per tutta la regione. Diverse sono le collaborazioni. Allora a te la parola per le linee generali e per presentare questa oltre che lodevole iniziativa. Iniziativa, Paolo. Grazie. Allora, in questo periodo dell'anno, per la terza volta negli ultimi 3 anni, quindi da metà novembre in pratica a fine dicembre, Trasparenze di Teatro Carcere è la vetrina di tutti i lavori prodotti in carcere da 7 compagnie teatrali diverse che operano su tutto il territorio regionale. E questa è l'occasione per fare, dire, un punto delle produzioni teatrali, ma anche il modo di aprire le carceri a pubblici che possono entrare per assistere agli spettacoli realizzati dai detenuti. Una novità di quest'anno del festival è che all'interno del festival sono presenti anche 4 spettacoli che le compagnie offrono ai detenuti, quindi non sono spettacoli aperti al pubblico, ma sono dedicati a sì, i vari gruppi di detenuti presenti. E questa è una cosa molto importante, oltretutto che con partecipazione, come ho detto in precedenza, che dà motivo di attenzione per quella che è un'estensione e un'apertura, perché ha una vita ristretta negli istituti penitenziari, oltremodo di espressione artistica. Si comincia, come già abbiamo detto, lunedì 13 e si inizierà da Reggio Emilia. Ci puoi dire un pochettino come è stato strutturato il lavoro? Se anche se chiaramente gli spettacoli sono tanti, tendenzialmente sono interpretazioni, riletture, lavori originali, di che si allora, tratta? La maggior parte dei lavori, quelli realizzati con i detenuti, sono lavori che nascono all'interno del carcere attraverso percorsi ideativi diversi. Alcuni partono da laboratori di scrittura con i detenuti, questo è il caso ad esempio di Bologna dove lavoro io, e in altre situazioni scritture dei detenuti sono rielaborate da poeti o drammaturghi esterni che vanno poi a comporre il lavoro che viene messo in scena. Le produzioni invece ospiti chiaramente sono spettacoli realizzati fuori dal carcere e che hanno identità, percorsi, certo, produttivi diversi. Certo. Gli spettacoli di quest'anno rientrano all'interno di una cornice complessiva che il coordinamento si è dato. Il coordinamento ha un progetto triennale che ha un titolo. Il titolo di questo progetto è Miti e Utopie, con un sottotitolo: Errare, Perdono, Comunità. Questo è il grande tema generale che viene declinato in maniera assolutamente particolare e originale in ciascuna città, in ciascun carcere. Ad esempio a Bologna il lavoro che ho costruito nell'arco di più di un anno si intitola Maman Boxing Club ed è la storia di un gruppo di donne che mette su una follia, ovvero fondare una palestra di box femminile popolare e come dire, partecipano tutte quante a questa impresa. E qui c'è il discorso chiaramente della comunità, come una comunità femminile che chiaramente è metafora del luogo in cui ci ritroviamo, mette in atto un'esperienza di vita comune al femminile. Sì, ho letto infatti nel programma, che è veramente molto esteso, che a Bologna ci sarà questo incontro, questo spettacolo, che è martedì 5 e mercoledì 6 dicembre al Teatro del Pratello, che mette in scena questo lavoro Maman Boxing Club, compagnia delle Sibilline, con il lavoro diretto e la curatela di Paolo Billi, che è qui con noi. Insomma, come ti è venuta questa idea di unire una legato alla palestra nella narrazione poi che porterai sul palcoscenico, Paolo? Ma questo è nato perché per costruire questo spettacolo abbiamo fatto attività di box con le donne della sezione. Poi tra l'altro questa è un'attività che è cominciata, finalizzata al teatro, ma dico attività di palestra vera e propria, sì, che è cominciata all'inizio di quest'anno, e poi mi piace che questa attività continui al di là dello spettacolo, cioè è diventata un'attività sportiva, esatto, per le donne presenti, perché poi la box, che come dire, come sport ho già sperimentato nei minorili, è in realtà una attività estremamente formativa. Non bisogna guardarla soltanto dall'aspetto di tirare i pugni, certo, è ben altro. Sappiamo benissimo il valore educativo della box e quella che è la box popolare in tante realtà sociali d'Italia, che diventa la palestra un momento di socializzazione e di crescita individuale e personale. Anche perché all'interno della stessa box, poi, che viene chiamata anche un'arte nobile, c'è un grande rispetto, no? Più che in altri sport molte volte. Sicuro! Per cui, guarda, direi proprio che non si tratta di tirare pugni in questo caso, anzi è un'idea assolutamente attinente ai percorsi che hanno come filo conduttore queste parole mito e utopia. Puoi ripetere, sì, perché è molto interessante. Miti e utopie, con il sottotitolo che recita Errare, perdono, comunità. Errare nella sua doppia, certo, accezione. Vagare e sbagliare. Di vagare e di sbagliare, certo, che poi in realtà sono due termini che, come dire, si rimandano l'un con l'altro. Hanno un etimo che è circolare, si rimandano, esatto, l'uno con l'altro, di percorso. E nel percorso, come ben sappiamo, purtroppo per tutte e per tutti ci sono gli inciampi. Paolo, puoi restare un attimo, ascoltiamo un po' di musica dei, certo, chitarristi John Scofield e Pat Metheny, e poi torniamo e continueremo a parlare di questa Festival Trasparenze di Teatro Carcere, la terza edizione, che sarà fino al 23 dicembre 2020. E 13. A tra poco, buon ascolto! Thank you. parte ritmica è portata dal bassista Steve Swallow e dal batterista fido per John Scofield, presente anche all'edizione del Bologna Jazz Festival in apertura nella sede concertistica di Forlì, Bill Stewart. Qui è un disco per Blue Note in collaborazione John Scofield e l'altro grande chitarrista Pat Metheny. Grandi autori in musica, e stiamo parlando con Paolo Billi per quanto riguarda Festival Trasparenze di Teatro Carcere, e beh, ovviamente da sottolineare anche grandi autori per la letteratura. Come ben sapete, Breakfast Club al mercoledì vi è il voltiamo pagina, quindi interessante l'intersezione tra le diverse rubriche. Ha parlato Paolo di incontri letterari anche per l'ispirazione all'arrivo di questa terza edizione. È certo che le due realtà sono legate. Siamo anche curiosi di sapere quali sono gli autori che hanno, tra virgolette, da lontano collaborato con questa edizione. Ci sei, Paolo? Certo. Mi piace rammentare per primo il lavoro che è stato fatto a Ferrara dal titolo Agnus Dei, che si ispira direttamente a diverse pagine dei Quaderni dal carcere di Gramsci. Ed è stato, io questo lavoro l'ho visto a giugno dell'anno scorso, estremamente interessante ed emozionante. Al di là di Gramsci viene, come dire, si incontrano Henry De Luca nel lavoro di Reggio Emilia, un monumento della letteratura italiana come Leopardi. Insomma, si trae ispirazione nei diversi lavori a figure letterarie estremamente notevoli, interessanti e impegnative. Esatto. Notevoli, certo, veramente dei titani della letteratura, e l'intersezione col teatro è immediatamente portata. Per quanto riguarda le sedi, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Forlì, Ravenna, Modena, come è stato il coordinare tutti questi teatri? Perché a me piace chiamarli teatri in questa circostanza, Paolo. Sì, sono teatri in carcere, e questo è fondamentale. Si entra in carcere per andare a vedere teatro. Certo. Chiaro che coinvolgendo ben 7 istituti su 9 di quelli presenti in regione, è stato un lavoro estremamente complesso, perché mettere insieme, d'accordo, sistemare le varie produzioni nei diversi istituti che hanno delle vite autonome non è stato per niente semplice. E devo dire che da parte dell'amministrazione penitenziaria del PRAP Emilia Romagna c'è stato un sostegno estremamente significativo. Senza una collaborazione attiva dell'istituzione carceraria tutto questo non sarebbe possibile a livello di coordinamento complessivo. Quindi, come dire, si deve dare atto che finalmente l'amministrazione sta riconoscendo un valore all'attività teatro, non semplicemente come un'attività ricreativa, ma come un'attività che ha delle implicazioni, vengono chiamate in termine tecnico trattamentali, estremamente importanti. Per me è un'esperienza che loro fanno, è un'esperienza formativa e artistica insieme. Esatto, io mettevo piuttosto queste due parole, costruttiva, formativa e artistica, assolutamente, perché oltre che le banali retoriche che si possono fare su tutto ciò, vi è una commistione di emozioni che riportare in tale situazione l'espressione teatrale indubbiamente è un grande valore aggiunto. Volevi citare anche un altro aspetto, mi pare, relativo all'interno del festival, come negli anni scorsi, si dedica un momento a un incontro, una tavola rotonda di riflessione sul tema teatro e giustizia minorile, quindi non carcere adulti, ma quello che sono gli istituti, l'istituto penale minorile presente nella regione, che sta a Bologna, al Pratello, e sarà uno sguardo su, come dire, la complessità che in questo momento si affronta per gli interventi con i minori. Sappiamo che come dire, la criminalità cosiddetta minorile è stata al centro, è al centro di tutta una serie di iniziative legate a decreti che cercano di, si dice, risolvere, ma credo che vanno a, come dire, a rendere ancora più difficile e confuso tutto quanto. Allora, soffermarsi sul fatto di il teatro come può essere operativo nei confronti di una situazione di ragazzi che veramente è sempre più difficile avere dei contatti reali. E questa è veramente un'impresa in questi tempi. E quindi il fatto di riflettere insieme operatori della giustizia, teatranti, ma anche con l'apporto di contributi di docenti universitari, come dire, potrà aiutare a affrontare questa situazione con, diciamo, uno sguardo più aperto. Sì. Allora, io parto dall'inizio. Si apre il festival lunedì 13 alle ore 15 con il debutto presso l'Istituto Penitenziario di Reggio Emilia de Il Cerchio di Storie, spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Mami Mo. Allora, ovviamente le sedi sono tante, il festival ha una durata estesa, è fino al 23 dicembre 2023. Vi è la possibilità di avere una sorta di programmazione anche dalla rete? Non amo tanto l'aspetto digitale, però in questo caso ci tocca, certo, citarlo. Il programma dettagliato si trova sul sito www.teatrodelfratello.it. Bene, io ti ringrazio tantissimo e appuntamento per altre edizioni e altri motivi di incontro. Festival Trasparenze di Teatro Carcere, terza edizione, e grazie Paolo Billi per questa conversazione, ti auguro una buona giornata, che è appena iniziata, oddio, per noi mattinieri forse no, però insomma l'abbiamo cominciata con una bella conversazione qua al Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Grazie Paolo. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a te, ciao. La tromba Blue Mitchell. John Patton all'organo Hammond B3, a tenere la ritmica Ben Dixon alla batteria, alla chitarra Grant Green, e Stepping Out portato dal frontman al sax tenore Harold Vick. Appuntamento, lo sapete, triplo appuntamento, di solito al venerdì siamo partiti con Altri Suoni, Angelica e la Minimal Music, e poi il Festival Trasparenze di Teatro Carcere, la terza edizione, intanto la solo di Grant Green, scusate, non lo voglio perdere. eccoci qua. Dopo le corde del chitarrista Grant Green, uno dei miei primi amori, mi ha portato anche un po' indietro di qualche decennio nella passione musicale per il jazz. Beh, andiamo in pubblicità tra qualche istante. Si rientra per la 23esima edizione del Future Film Festival, edizione 2023. E 23esima edizione, fate un po' voi i vostri calcoli. Thank you.